Minatori, tallossati sta terra addolorata, d'inciasto un ferno pina scorce pane, s'arrosi cassi rulicane, s'arrosi cassi rulicane. Minature, iavi la facci niura comma pici, dove in cista montagna spurtusata, e culi causi arrupezzate, iavi li spadicchini di doluri, ad ogni morti di lusule, c'è scuro fitto dintra sto vaduni. Minaturi, se tu potessi seminare o vento, ma non c'è nudo, nudo a t'ascutare. E non c'è niente unni a pugliare, sta testa china di pensiero amari. Minaturi, io sento di lontano tuo lamento, tallossa di sta terra addolorata, e su lupina crusta e pane ci l'hai tassero alicane. Minature, o tempo passa e tu sei carcerato, povero e pazzo e sempre più arraggiato, e come un mulo vastoniato, inghiotti in vaganto e resti senza sciato. Minaturi, se tu potessi seminare o vento, ma non c'è nudo, nudo a t'ascutare, e non c'è niente unni a pugliare, sta testa china di pensieri amari. Minaturi, io sento di lontano tuo lamento, dall'ossa di sta terra addolorata, e su lupina crusta e pane ci l'hai tassero alicane, ci l'hai tassero alicane. Minature, tallossa di sta terra dura,